Delusione nel centro-sinistra per la trombatura di Massimo D'Alema alla carica di ministro degli esteri dell'Unione Europea. Bersani e la Bindi, per consolarlo, gli hanno proposto una nuova e lunga missione in Paupasia sulle strade di Marco Polo. D'accordo anche Berlusconi, a patto naturalmente che con D'Alema si metta in viaggio anche Fini. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, no, vengo anch'io, no, no.